Capitolo 5. Quando entrai nell'Old Bailey, quel memorabile mercoledì 2 aprile 1913, per essere processata per aver istigato a commettere un reato, l'aula era stipata di donne. Una vasta folla di donne, che non erano riuscite a procurarsi il biglietto d'ingresso, rimasero per ore nella strada davanti al tribunale in attesa di ricevere notizie del processo. Un gran numero di detective di Scotland Yard e un numero ancora maggiore di agenti in uniforme piantonavano sia all'interno che all'esterno dell'aula. Non riuscivo a capire come mai fosse necessario un tale reggimento di polizia, perché al tempo non mi ero resa conto dello stato di terrore in cui il movimento militante, nella sua nuova incarnazione, aveva gettato le autorità. Il signor Botkin e il signor Travers Humphreys erano incaricati di procedere per conto della corona e io stessa condussi la mia causa, consultandomi col mio avvocato, il signor Marshall. Il giudice, Justice Lush, prese il suo posto e io il mio alla sbarra, e da lì ascoltai la lettura del capo di imputazione. Mi dichiarai non colpevole, non perché volevo evadere la responsabilità dell'esplosione, mi ero già assunta quella responsabilità, ma perché mi si accusava di avere istigato perfidamente e maliziosamente le donne a compiere un crimine. Ciò che avevo fatto non era perfido nelle intenzioni, anzi, era tutto l'opposto. Pertanto non potevo in tutta franchezza dichiararmi colpevole. Aperto il processo, il giudice mi domandò cortesemente se preferivo sedermi. Lo ringraziai e gli chiesi se potevo avere un tavolo su cui poggiare i miei documenti. Per ordine del giudice, mi fu portato un tavolo. Botkin aprì la causa illustrando il Malicious Damages to Property Act, la legge sui danni alla proprietà del 1861, su cui si basava l'accusa a mio carico. E dopo aver descritto l'esplosione che aveva danneggiato la casa di Lloyd George a Walton, disse che ero accusata di complicità nell'esecuzione dell'atto. Nulla indicava, disse, che fossi presente nel momento in cui era stato commesso il reato, ma l'accusa era che avevo spronato e incitato, consigliato e incaricato le donne, i cui nomi erano sconosciuti, a compiere quel crimine. Sarebbe spettato alla giuria decidere, dopo la presentazione delle prove, se i fatti non portavano chiaramente alla conclusione che le donne, probabilmente il numero di due, che avevano commesso materialmente il reato, fossero membri della WSPU, che aveva sede a Kingsway, Londra, e di cui l'imputata era la mente, l'anima e la riconosciuta leader. Fu poi descritta nel dettaglio l'esplosione della casa di Lloyd George. Che il danno fosse stato concepito come un atto contro Lloyd George era chiaro, disse Botkin, stando alle astiose dichiarazioni fatte contro di lui dalla detenuta. Produsse una lettera privata scritta da me e un amico, in cui difendevo la militanza e dicevo che non solo ero diventata un dovere, ma date le circostanze anche una necessità politica. Botkin disse: una lettera di questo tipo prova chiaramente diverse cose, dimostra che è una leader, dimostra la sua influenza sugli emotivi membri di questa organizzazione, dimostra che secondo lei la militanza può essere frenata per un periodo e sguinzagliata sulla società in un altro periodo. E dimostra anche che qualsiasi persona o qualsiasi donna che intenda votarsi alla militanza, che è solo una pittoresca espressione per commettere reati contro la società, deve comunicare con lei e solo con lei, oralmente o per lettera. Quello è il proclama che è stato inviato ai membri di questa organizzazione. L'evidente contenuto di quella lettera è: se non otteniamo ciò che vogliamo, il governo e i suoi membri ne saranno responsabili e il governo e il pubblico verranno obbligati a darci ciò che vogliamo. Furono letti vari stralci dei miei discorsi di gennaio e febbraio, oltre all'ultimo discorso fatto subito prima del mio arresto a Chelsea. Ma prima che venissero letti, io dissi: vorrei porre un'obiezione ai resoconti dei miei discorsi fatti dalla polizia. Mi sono stati forniti, e l'unico rapporto che accetto è quello del giornalista di Cardiff, che era un testimone diretto. Lui ha offerto un resoconto molto accurato di quello che dissi in quella città. I resoconti della polizia non li accetto. Sono grossolanamente approssimativi e ignoranti e sgrammaticati e comunicano un'espressione assolutamente errata di quello che ho detto sotto molti punti di vista. Dopodiché furono ascoltati i testimoni. Il carrettiere che aveva udito e denunciato l'esplosione, il direttore dei lavori della casa danneggiata, che parlò dei costi dei danni e descrisse gli ordigni, eccetera. Trovati sul posto, diversi agenti di polizia che raccontarono di aver trovato nella casa fermagli e stivali di gomma, e così via. Non fu portato alla luce assolutamente nulla che potesse dimostrare che le suffragette avessero qualcosa a che fare con la vicenda. Il giudice notò questo fatto, poiché disse al signor Botkin: «Non sono affatto convinto di come state presentando questo caso. Ci sono due diverse maniere di considerarlo. Intendete chiedere alla giuria di affermare che l'imputata suggerì espressamente la perpetrazione del reato, oppure sostenete che, tenendo conto dei discorsi che avete letto, sempre ammesso che possiate dimostrare che siano stati effettivamente pronunciati, ed essendo il linguaggio usato un generico incitamento a danneggiare la proprietà, chiunque abbia agito su questo invito e abbia perpetrato questo oltraggio sarebbe stato incitato da lei a farlo?» Botkin rispose che la seconda supposizione era quella corretta. «Dico che in generale i discorsi sono un'istigazione a commettere ogni genere di atto violento contro la proprietà e che danno prova degli attacchi contro la proprietà e un particolare individuo, e che nei discorsi che sono stati letti e che potranno essere dimostrati c'è la prova delle ammissioni della signora Pankhurst di essere stata coinvolta nel reato in oggetto in un modo che fa di lei, a termini di legge, una complice fin dal prima del compimento del fatto. Ma voi non limitate il caso alla seconda supposizione?» «No», rispose Botkin. «Dunque, seppure la giuria si accontenta», disse il giudice, «che la signora Pankhurst non è direttamente coinvolta in questo reato, per il solo fatto di averlo consigliato, voi chiedete ai giurati di affermare che consigliando, come dite che abbia fatto con i suoi discorsi, la distruzione della proprietà, in particolare quella appartenente a un singolo gentiluomo, chiunque abbia agito secondo quel consiglio e abbia commesso il reato sarebbe stato incitato da lei a farlo?» «Sì, vostro onore». «Signora Pankhurst, adesso comprendete come viene posta la questione?» mi domandò il giudice. «Lo capisco molto bene, vostro onore», risposi. Il procedimento fu ripreso il giorno dopo e il vaglio dei testimoni dell'accusa proseguì. Al termine delle deposizioni, il giudice mi chiese se desideravo chiamare qualche testimone. Replicai: «Non intendo presentare prove o convocare testimoni, ma desidero fare un discorso a vostra eccellenza». Iniziai con alcune obiezioni a ciò che Botkin aveva detto nella sua arringa nei miei personali riguardi. Mi aveva descritto, o comunque le sue parole lo suggerivano, come una donna che se ne va in giro con l'automobile a incitare le altre donne a compiere atti che comportano carcerazioni e sofferenze, mentre io, indulgendo magari in qualche curiosa forma di piacere, resto al riparo, o penso di farlo, dalle conseguenze più gravi. Dissi che il signor Botkin sapeva benissimo che io condividevo tutti i rischi che le altre donne affrontavano, che ero stata in prigione 3 volte, che avevo scontato interamente 2 condanne ed ero stata trattata come una criminale comune, perquisita, costretta a indossare i vestiti del carcere, a mangiare il cibo del carcere, a subire periodi in cella di isolamento, e mi ero conformata a tutte le abominevoli regole imposte alle donne che commettono reati in Inghilterra. Pensai che fosse mio dovere, date le insinuazioni che erano state fatte riguardo al lusso in cui vivevo, supportato dai membri della WSPU, non solo dal signor Botkin in sala, ma anche da alcuni membri del governo nella Camera dei Comuni, pensai che fosse mio dovere precisare che non possedevo un'automobile e mai l'avevo posseduta. La vettura con cui talvolta mi spostavo era di proprietà dell'associazione e veniva utilizzata per generiche attività di propaganda. Con quella macchina e con le macchine di alcuni amici avevo svolto il mio lavoro di portavoce del movimento in favore del suffragio femminile. Era parimenti falso, dissi, che alcune di noi si assicuravano redditi di 1.000 o 1.500 sterline all'anno grazie al movimento suffragista, come era stato insinuato nei dibattiti alla Camera in cui alcuni parlamentari stavano cercando un modo per annientare il movimento. Nessuna donna della nostra associazione percepiva alcun guadagno o qualsiasi cosa del genere. Quanto a me, avevo sacrificato una considerevole porzione dei miei redditi perché avevo dovuto impegnarne una parte consistente al fine di essere libera di svolgere quello che ritenevo essere il mio ruolo nel movimento. Pronunciando l'arringa in mia difesa, dissi alla corte che la situazione era davvero grave se un gran numero di persone oneste e rispettose della legge, persone rette, arrivano a disprezzare la legge, arrivano a convincersi di essere legittimate a infrangere la legge. Tutto l'insieme di un buon governo, dissi, poggia sull'accettazione della legge, sul rispetto della legge. E io vi dico seriamente, vostro onore e signori della giuria, che donne intelligenti, donne affermate, donne di moralità specchiata hanno per molti anni cessato di rispettare le leggi di questo paese. È un fatto assodato. E se guardate come le leggi di questo paese trattano le donne, non c'è da meravigliarsene. Parlai diffusamente di queste leggi. Leggi che davano la possibilità al giudice di mandarmi in carcere, in caso di colpevolezza, per 14 anni, quando la pena massima per le offese più rivoltanti contro le ragazzine era di soli 2 anni di detenzione. Le leggi sulla secessione, le leggi sul divorzio, le leggi sulla custodia dei figli, tutte così scandalosamente ingiuste verso le donne. Illustrai brevemente e dissi che non solo queste e altre leggi, ma l'amministrazione delle leggi era talmente inadeguata che le donne si sentivano autorizzate a dividersi il lavoro per fare piazza pulita di tutta la situazione. Cercai di raccontare alcune cose terribili che avevo appreso in quanto moglie di un avvocato, cose riguardanti uomini che occupano i posti che contano e a cui è affidata l'amministrazione della legge, di un giudice di corte d'assise dove sono stati perpetrati i crimini peggiori contro le donne. Lo stesso giudice è trovato morto una mattina in un bordello. Ma la corte non mi avrebbe permesso di mettere in discussione queste personalità, come le definiva, con riferimento alle persone illustri, e mi disse che la sola questione da sottoporre alla giuria era se rispetto all'accusa che mi veniva mossa ero o no colpevole. Dovevo tenermi al merito e non potevo parlare d'altro. Dopo una lunga schermaglia per vedermi riconosciuta la possibilità di spiegare alla giuria le ragioni per cui le donne avevano perso la fiducia nella legge e stavano conducendo questa lotta per diventare loro stesse promotrici di leggi, conclusi il mio discorso dicendo: più di 1000 donne sono andate in carcere nel corso di queste agitazioni. Hanno sofferto stando chiuse in prigione. Sono uscite di prigione con la salute compromessa, indebolite nel fisico, ma non nello spirito. Io sono venuta a sostenere questo processo dal capezzale di una delle mie figlie, che è uscita dal carcere di Holloway dopo esservi rimasta 2 mesi ai lavori forzati per aver partecipato insieme ad altre 4 persone alla rottura di un piccolo vetro di una finestra. In prigione ha fatto lo sciopero della fame, ha subito per oltre 5 settimane il tremendo calvario dell'alimentazione forzata ed è stata rimessa in libertà avendo perso quasi 12 chili. È talmente debilitata che non riesce ad alzarsi dal letto. E io vi dico, gentili signori, che questo è il genere di punizione che voi infliggete a me e a qualsiasi altra donna compaia al vostro cospetto. Vi chiedo se siete pronti a mandare in prigione un incalcolabile numero di donne. Mi rivolgo a voi in quanto rappresentanti di altri nella vostra stessa posizione. Se siete pronti ad andare avanti all'infinito facendo quel genere di cose, perché è proprio quello che succederà. Su questo non si possono avere dubbi. Penso che abbiate visto abbastanza, anche in questa specifica causa, tanto da convincervi che non siamo donne con la cattiva fama di predatrici. Potevamo procurarcela, sa il cielo, molto più facilmente se volevamo. Siamo donne convinte, giusto o sbagliato che sia, che questo è l'unico modo che abbiamo per conquistare il potere di cambiare quelle che per noi sono condizioni intollerabili, condizioni assolutamente intollerabili. Un sacerdote di Londra, giusto l'altro giorno, diceva che il 60% delle donne sposate nella sua parrocchia portano a casa il pane. Sostentano i mariti così come i figli. Quando pensate ai salari delle donne, quando pensate a cosa ciò significhi per il futuro dei bambini di questo paese, vi chiedo di prendere la questione molto seriamente. Solo questa mattina mi è giunta l'informazione, che può essere ribadita anche sotto giuramento, che in questo paese, nella nostra stessa Londra, c'è un traffico regolamentato non solo di donne di maggiore età, ma anche di bambini piccoli, che vengono comprati, vengono raggirati e vengono addestrati a soddisfare i depravati piaceri di persone che dovrebbero essere più giudiziose visto le posizioni che occupano. Bene, queste sono le cose che hanno reso noi donne determinate ad andare avanti, determinate ad affrontare qualsiasi ostacolo, determinate a veder finire questa situazione, costi quel che costi. E se voi mi condannate, gentili signori, se mi dichiarate colpevole, vi dico onestamente e con tutta franchezza che sia lunga o breve la condanna, io non mi lascerò sottomettere. nel momento stesso in cui lascerò quest'aula, se mi mandate in carcere, sia lavori forzati, sia in detenzione semplice, perché non sono abbastanza afferrata in materia giuridica per sapere cosa deciderà Sua Eccellenza. Ma qualsiasi sarà la mia condanna, dal momento in cui lascerò quest'aula mi rifiuterò deliberatamente di assumere cibo. Mi unirò nello sciopero della fame alle donne che sono già Holloway. Uscirò di prigione, viva o morta, il prima possibile. E una volta tornata libera, non appena avrò ripreso un po' di forza, ricomincerò immediatamente a lottare. La vita è molto cara a tutti noi. Non penso affatto, come è stato detto dal segretario di Stato, di volermi suicidare. Voglio vedere le donne di questo paese emancipate e voglio vivere finché non succederà. Questi sono i sentimenti che ci animano. Offriamo noi stessi in sacrificio, come hanno fatto in passato i nostri padri per questa causa, e vorrei che tutti voi mi poneste questa domanda. Avete voi il diritto, come esseri umani, di condannare a morte un altro essere umano? Perché è di questo che si tratta. Potete gettare voi la prima pietra. Avete voi il diritto di giudicare le donne. Voi non avete il diritto sull'umana giustizia. Non vi è dato il diritto dalla Costituzione di questo paese, se interpretata correttamente, di giudicarmi, perché non siete miei pari. Voi sapete, ciascuno di voi lo sa, che io non sarei qui, che io non avrei infranto nessuna legge, se avessi i diritti che avete voi, se avessi partecipato attivamente alle elezioni di coloro che fanno le leggi a cui debbo obbedire, se avessi voce nel controllare le tasse che sono obbligata a pagare, io non sarei qui. Vi dico, vostro onore, che la situazione è molto grave, che le donne rette, donne che hanno dedicato i migliori anni della propria vita al benessere pubblico, donne che si sono impegnate per tentare di rimediare ai terribili errori che hanno fatto gli uomini nel governare il paese, perché in fin dei conti gli uomini sono responsabili dell'attuale stato delle cose, vi dico che è una situazione molto grave. Voi non siete abituati a trattare con gente come me, perché siete chiamati a trattare con persone che infrangono la legge per motivi egoistici. Io infrango la legge non per ragioni di egoismo, non ho scopi personali da perseguire, né li hanno tutte le altre donne che sono transitate davanti a questa corte nelle ultime settimane come carne da macello. Nessuna di queste donne, se le donne fossero libere, sarebbe una delinquente. Sono tutte donne che credono profondamente che questo sentiero che stanno percorrendo sia l'unica strada che porta alla loro emancipazione. Credono fermamente che il benessere dell'umanità richieda questo sacrificio. Credono che gli orribili mali che stanno devastando la nostra civiltà non saranno eliminati finché le donne non avranno il diritto di voto. Loro sanno che la vera sorgente della vita è avvelenata, sanno che le case vengono distrutte, che a causa della cattiva istruzione, che a causa dell'iniqua scala dei valori, anche le madri e i figli vengono distrutti dalle più tremende e spregevoli malattie che devastano l'umanità. C'è solo un modo per fermare il nostro movimento. C'è solo un modo per far crollare il nostro movimento. E non è deportarci. Non è rinchiuderci in prigione. È darci giustizia. E perciò mi appello a voi, gentili signori, in questo mio caso, voi che emetterete un verdetto non solo per il mio caso, ma per tutto il movimento. Vi chiedo di non giudicarmi colpevole di dolosa istigazione a una violazione della legge. Queste sono le mie ultime parole. Il mio incitamento non è teso a compiere un reato. Se avessi il potere di occuparmi liberamente di queste cose, sarei assolutamente ossequiosa della legge. Direi alle donne: avete a disposizione gli strumenti costituzionali per vedere soddisfatte le vostre rivendicazioni. Usate i vostri voti, persuadete i vostri colleghi votanti della correttezza delle vostre pretese. Questo è il modo di ottenere giustizia. Non sono colpevole di istigazione a delinquere e mi appello a voi per il bene del paese, per il bene della razza umana, affinché emettiate una sentenza di non colpevolezza in questo processo che siete stati chiamate a giudicare. Dopo aver ricapitolato i capi d'accusa, il giudice, sintetizzando, disse: non c'è bisogno che vi dica che gli argomenti sollecitati dall'imputata nella sua arringa riguardo alla provocazione delle leggi di questo paese e all'ingiustizia verso le donne per il fatto che a loro non è concesso il diritto di voto come agli uomini, non devono in alcun modo influenzare la decisione che siete chiamati a prendere. Le sue motivazioni, così come le motivazioni di coloro che hanno materialmente piazzato l'ordigno, non possono essere usate a difesa di questo capo di imputazione. Sono certo che vorrete valutare questo caso basandovi esclusivamente sulle testimonianze e solo sulle testimonianze, senza tenere conto della questione se pensate che la legge sia giusta o ingiusta. Questo non ha nulla a che vedere con il caso. Suppongo che probabilmente non avrete dubbi sul fatto che questa imputata, se ha compiuto i reati che le vengono contestati, non sia stata spinta dalle solite ragioni egoistiche che spingono molti dei criminali che compiono davanti a questa corte a commettere i crimini che commettono. Ciononostante, lei è da considerarsi colpevole se ha compiuto i reati che le vengono contestati, anche se pensa che usando questi mezzi la condizione della società possa essere cambiata. La giuria si ritirò e subito dopo l'apertura della seduta pomeridiana della corte rientrò e, in risposta alla consueta domanda del clerk of arraign, disse che avevano raggiunto un verdetto unanime. Il clerk disse: Ritenete la signora Pankhurst colpevole o non colpevole? Colpevole, disse il primo giurato, con forte raccomandazione di clemenza. Io parlai ancora rivolgendomi al giudice. La giuria ritiene che io sia colpevole e raccomanda clemenza, e io non capisco se le motivazioni non sono prese in considerazione delle leggi umane. Come avrebbero potuto decidere diversamente dopo il vostro riassunto? Ma dato che la motivazione non è presa in considerazione delle leggi umane, dato che io, che ho motivazioni che non sono motivazioni ordinarie, sto per essere condannata da voi alla stessa pena che viene accordata a persone le cui motivazioni sono egoistiche. Ho solo questo da dire. Se era impossibile giungere a un verdetto differente, se è vostro dovere condannarmi, come state per fare, allora voglio dire a voi, come privato cittadino e ai giurati, come privati cittadini, che io, davanti a voi, giudicata colpevole dalla legge del mio paese, io vi dico che è vostro dovere, in quanto privati cittadini, fare tutto ciò che potete per mettere fine a questo intollerabile stato delle cose. Io vi carico di questo dovere e voglio dire, qualsiasi sia la condanna che mi darete, io farò tutto ciò che è umanamente possibile per far terminare quella condanna nel più breve tempo possibile. Io non ho sensi di colpa, sento di aver fatto il mio dovere, mi considero una prigioniera di guerra, non ho l'obbligo morale di conformarmi alla condanna che mi imporrete o anche solo di accettarla. Prenderò i rimedi disperati e che hanno preso altre donne. Per voi è ovvio che la lotta è impari, ma io ce la farò. Resisterò fin tanto che avrò un grammo di forza dentro di me o un residuo di vita dentro di me. Io combatterò, io combatterò, io combatterò dal momento in cui entrerò in carcere per lottare contro le disparità soverchianti. Resisterò ai dottori se proveranno ad alimentarmi. A maggio scorso sono stata condannata in questa corte a 9 mesi di carcere. Sono rimasta in prigione 6 settimane. Ci sono persone che ridono del calvario dello sciopero della fame e dell'alimentazione forzata. Tutto quello che posso dire è che i medici possono confermarlo. Sono stata rimessa in libertà perché se fossi rimasta lì dentro ancora un'ora, sarei una donna morta. So com'è, perché ci sono passata. Mia figlia ne è appena uscita. Ci sono donne che stanno ancora vivendo quel calvario. Lo devono affrontare 2 volte al giorno. Rifletteteci, vostro onore. Passare 2 volte al giorno attraverso questa lotta. 2 volte al giorno una donna debole resiste a una forza soverchiante, una forza che le viene usata contro finché le resta un po' di energia, una forza contro le donne e anche contro gli uomini che resistono con la loro lingua, con i denti, a questo supplizio. Ieri sera in Camera dei Comuni si è discusso di alcune alternative, o meglio di alcune punizioni supplementari. Non è una cosa strana, vostro onore, che le leggi che sono bastate a piegare gli uomini nella storia di questo paese non bastino a piegare le donne, donne per bene, donne oneste. Bene, vostro onore, Voglio che questo vi sia ben chiaro. Non mi sto lamentando della mia punizione, anzi, la esorto. Ho deliberatamente infranto la legge, non istericamente o emotivamente, ma di proposito e coscientemente, perché onestamente sento che questa è l'unica strada. Adesso pongo la responsabilità di ciò che accadrà su di voi, vostro onore, come privato cittadino, e sui gentili signori della giuria, come privati cittadini, e su tutti gli uomini di questo tribunale. Come farete, col vostro potere politico, per mettere fine a questa intollerabile situazione? Alle donne che ho rappresentato, alle donne che rispondendo al mio incitamento hanno affrontato queste terribili conseguenze, hanno infranto la legge. A loro voglio dire che non le deluderò, ma che l'affronterò come l'hanno affrontata loro, che andrò fino in fondo e io so che loro proseguiranno questa battaglia, sia che io viva, sia che io muoia. Questo movimento continuerà fino a quando non avremo conquistato il diritto di cittadinanza in questo paese, come le donne delle nostre colonie, come sarà in tutto il mondo prima che questa guerra di donne sarà finita. Questo è tutto quello che ho da dire. Il signor Justice Lush, nell'emettere la sentenza, disse: è mio dovere, signora Emmeline Pankhurst, ed è un dovere assai penoso, emettere quella che secondo me è una sentenza corretta e adeguata per il crimine del quale siete stata giustamente ritenuta colpevole, tenendo comunque conto della forte raccomandazione di clemenza della giuria. Riconosco che, come ho già avuto modo di dire, le motivazioni che vi hanno spinto a commettere questo reato non sono le ragioni egoistiche che spingono la maggior parte delle persone che si trovano nella vostra stessa posizione, ma per quanto voi vi rifiutate di aprire gli occhi davanti all'evidenza, non posso fare a meno di ricordarvi che il reato per il quale siete stata condannata è non solo molto grave, ma nonostante le vostre motivazioni è di fatto scellerato. È scellerato perché non solo conduce alla distruzione della proprietà di persone che non vi hanno fatto niente di male, ma a dispetto dei vostri calcoli, può esporre altra gente al pericolo di essere mutilata o addirittura uccisa. È scellerato perché voi inducete, avete indotto altre persone, donne giovani probabilmente, a lasciarsi coinvolgere in questi crimini, rischiando la propria rovina. Ed è scellerato perché non potete non esserne colpevole. Se solo ci aveste pensato. State dando un esempio ad altre persone che possono avere altre rivendicazioni che vorrebbero legittimamente vedere riconosciute, magari ordendo una macchinazione simile alla vostra, cercando di attuare i loro propositi attaccando la proprietà, se non addirittura le vite altrui. So che purtroppo, direi che ne sono proprio sicuro, non darete retta a quello che sto dicendo. Vi prego solo di ragionare su queste cose. Ci ho ragionato, mi intromisi. Ragionateci anche soltanto per un'ora, con calma, continuò Sua Maestà la legge. Io posso solo dire che per quanto la sentenza che mi appresto a emettere sarà severa e adeguata al reato di cui siete stata giudicata colpevole, se vi renderete conto dello sbaglio che state facendo e riconoscerete l'errore che avete commesso, e se vi impegnerete a cambiare rotta, esercitando la vostra influenza nella giusta direzione, sarò io per prima a fare tutto il possibile per limitare la sentenza che sto per emettere. Non posso e non potrò considerare il vostro reato come un crimine di poco conto. Non lo è molto grave ed è, qualsiasi cosa ne pensiate voi, scellerato. Ho tenuto conto delle raccomandazioni della giuria. Voi stessa avete indicato la condanna massima che questo particolare oltraggio merita per legge. La condanna minima che posso emettere a vostro carico è una condanna a 3 anni di lavori forzati. Non appena la sentenza fu pronunciata, l'intenso silenzio che aveva regnato in aula durante tutto il processo fu rotto e un vero pandemonio scoppiò tra gli spettatori. All'inizio si udì solo un vago e rabbioso mormorio di vergogna! Vergogna! Il brusio si trasformò presto in forti grida di indignazione. E dalla galleria e dalla platea si alzò un grande coro della massima intensità e passione. Vergogna! Vergogna! Le donne schizzarono in piedi, in molti casi saltando sui sedili, continuando a gridare: Vergogna! Vergogna! Mentre io, Venivo portata via dal banco degli imputati da due carcerieri. Continuiamo a sventolare la bandiera, urlò una donna, e la risposta fu un coro di Lo faremo, ben detto, tra urrà per la signora Pankhurst. Quelle furono le ultime parole che sentì della protesta nell'aula del tribunale. Poi venni a sapere che il rumore e il trambusto erano andati avanti ancora per diversi minuti con il giudice e la polizia che avevano faticato a riportare l'ordine. Alla fine le donne erano uscite dall'aula cantando la Marsigliese delle donne. In marcia verso l'alba, l'alba della libertà. Il giudice, mentre le donne si ritiravano, minacciò di sbattere in prigione qualunque donna avesse osato ripetere una scena simile. Minaccia di prigione alle suffragette. Il canto delle donne divenne solo più alto e forte e i corridoi dell'Old Bailey risuonarono delle loro grida. Di sicuro, quel venerando edificio non aveva mai visto una scena del genere in tutta la sua movimentata storia. La gran folla di detective e poliziotti che erano in servizio sembravano paralizzati dall'audacia della protesta, perché non fecero alcun tentativo di intervenire. Alle 3, quando lasciai il tribunale dall'uscita laterale di Newgate Street, trovai una folla di donne che mi aspettavano per salutarmi. Insieme alle due carceriere entrai in una carrozza a quattro ruote e fui condotta a Holloway per iniziare il mio sciopero della fame. Un sacco di donne mi seguirono in taxi e quando arrivai all'entrata del carcere, anche lì si scatenarono cori di tifo a sostegno della causa e fischi per la legge. Nel pieno di questa grande eccitazione, oltrepassai il tetro cancello fin dentro la penombra del carcere, ormai diventato un campo di battaglia.